Leggere è un modo per viaggiare. Yeah! What's up, y'all? This your boy T-Mike. You see, I usually do songs with like hooks and concepts and shit, right? But fuck that, man. I'm trying to go platinum. So I'm about to rock this shit. Check this out, y'all. Read a book, read a book, read a motherfucking book. Read a book, read a book, read a motherfucking book. Read a book, read a book, read a motherfucking book. Read a book, read a book, read a motherfucking book. Direi che è il modo più bello per viaggiare. E buona domenica a tutte e tutti, è l'11 aprile, sono le 15:37 e siete all'ascolto in diretta di Poi It, Lettere Contrarie, la trasmissione dedicata alla letteratura di Radio Wombat. Come sempre, assieme a me, il buon caro vecchio Edoardo Olmi. Ciao Edo, ci sei? Ci senti? Ti sentiamo? Ciao Mario, ciao Wombat, buona domenica e ben ritrovati a tutti quanti. Funziona, sembra tutto, oggi trasmettiamo in una nuova, nuovissima Tana del Wombat, che per adesso direi tutto ineccepibile, grazie a Briccobaldo che ci sta ospitando. Dunque, un sacco di cose oggi su questa puntata di Poi It. Prima di dimenticarmene, ricordo che però ci potete contattare in diretta cliccando su Diretta Wombat dal sito e poi scrivendoci direttamente sul pad, oppure scrivendo a postawombat@insiberia.net. Velocemente annunciamo tutta la scaletta di oggi, che è davvero ricca di argomenti. Inizieremo infatti presentando in grande anteprima Diramazioni, un libro di prossima uscita per la collana di Affluenti ed edizioni Ensemble di Bartolomeo Bellanova, che avremo fra poco qui ospite con noi in diretta. Leggeremo più avanti alcuni estratti, insomma, dei comunicati di mobilitazione dei teatri Mercadante di Napoli e del Piccolo di Milano, e nell'ultima parte della trasmissione presenteremo invece il Red Carnation International Poetry Reading, un grande reading di poesia internazionale organizzato dalle Brigate dei Poeti Rivoluzionari. Ne parleremo più avanti. Iniziamo, come anticipato, subito con le diramazioni di Bartolomeo Bellanova, e per non rubare niente a questa scaletta io direi, Edo, se sei d'accordo, mettiamo subito una canzone e poi via con la prima parte della trasmissione di oggi. Molto volentieri, perché anche questa domenica il palinsesto è abbastanza corposo e quindi sì, iniziamo alla grande con il primo brano musicale. E poi piove, non potete uscire, allora è viva l'ascolto di Poi It, di un po' di bella letteratura. A fra poco. Coming down that railroad track. Hey, look yonder coming down that railroad track. It's the Orange Blossom Special, bringing my baby back. Well, I'm going down to Florida and get some sand in my shoe. Or maybe California and get some sand in my shoes. I'll ride that orange blossom special and lose these New York blues. Say, man, when you going back to Florida? When am I going back to Florida? I don't know. I don't reckon I ever will. Ain't you worried about getting your nourishment in New York? Oh, I don't care if I do, die, do, die, do, die, do, die, do, die. Hey, talk about a rambling. She's the fastest train on the line. Talk about a travel. She's the fastest train on the line. It's that orange blossom special rolling down the seaboard line. Eccoci su Poi It, lettere contrarie, assieme a Edoardo Olmi. Stiamo per introdurre l'ospite di oggi, che come anticipato è Bartolomeo Bellanova. Intanto, Bartolomeo, ci sei? Ci senti? Sì, salve, ciao, buon pomeriggio a tutti. Ringrazio di questa ospitalità Radio Wombat, Mario e Edoardo Olmi, che è stato appassionato e professionale curatore di questo di diramazioni. Grazie Edo. Come grazie sempre. Grazie a te Bartolomeo, è stato un piacere. Grande, grandi, benvenuti, benvenuto Bartolomeo, grazie davvero invece a te per aver accettato il nostro invito. Dunque ti introduco velocemente. Bartolomeo Bellanova, che è nato a Bologna nel 65, nel 2009 ha pubblicato il suo primo romanzo, La fuga e il risveglio, al quale ha fatto seguito nel 2012 Ogni lacrima è degna, ancora un romanzo. Ha curato e pubblicato su varie antologie di poesia. Nel 2015 è uscita la sua raccolta poetica A perdicuore, versi scomposti e liberati, e nel 2017 la raccolta Gocce insorgenti. È del 2018 il tuo terzo romanzo, La storia scartata, attorno alla quale hai svolto e stai svolgendo alcuni laboratori in istituti superiori bolognesi. Bartolomeo Bellanova è anche fondatore e redattore del contenitore online di scritture dal mondo, lamacchinasognante.com. Oggi è qui ospite a questi microfoni per parlare, oltre che di tutto questo, soprattutto del suo libro di prossima uscita per la collana Affluenti, appunto, diramazioni. Dunque, intanto, tutto giusto Bartolomeo? Quello che ho detto? Tutto giustissimo, a posto, grazie. Grazie a te. E beh, Edo, visto che insomma di affluenti ne sai più direi di chiunque altro, a te il piacere e l'onore di introdurre questa pubblicazione. Beh, che io ne sappia di affluenti più di chiunque altro, chi lo sa, in realtà è tutto da dimostrare, no? A parte gli scherzi, a parte le battute. Ringrazio Bartolomeo per aver accettato questo invito, per essere qua con noi in diretta. È stato un piacere per me lavorare sulla tua raccolta come editor, e perché è un bellissimo libro, un libro molto bello di diramazioni, con cui secondo me Bartolomeo Bellanova fa un passaggio anche all'interno del suo percorso letterario, che già, come abbiamo ascoltato anche dalla lettura della sua biografia, ha già varie pubblicazioni all'attivo, sia in ambito narrativo che in ambito poetico. E però diramazioni secondo me è un libro con cui Bartolomeo Bellanova compie un ulteriore passo in avanti in termini di ricerca poetica, sia per la trasversalità, diciamo così, dei temi di questa raccolta, ma anche proprio per la ricerca poetica a livello di linguaggio, che secondo me mi sembra che lui abbia aperto e stia scavando in questo percorso a partire in particolare da questo libro. E Bartolomeo Bellanova, noi abbiamo avuto il piacere di conoscerlo come affluenti proprio alla presentazione qui a Firenze, se non sbaglio, Bartolomeo, correggimi se sbaglio, ma credo fosse il febbraio del 2018, quando a Firenze alla Sede Breakfast presentammo la tua, diciamo, per adesso ancora ultima raccolta di poesie, in attesa che esca appunto Diramazioni, che è Voce Insorgenti, appunto, che presentammo qua a Firenze. E nell'occasione di quella presentazione, appunto, ci conoscemmo, ci incontrammo e diciamo, nacque subito, penso, una sintonia fra il progetto di Affluenti e fra le persone che ne fanno parte, che lo curano, anche con Marco Incardona ed altri del gruppo, e quella che era, diciamo, già la poetica che emergeva da quel libro, da Voce Insorgenti, ma anche quelli che sono poi i progetti che tu curi, che porti avanti, come per esempio quello della Macchina Sognanti, che è un contenitore online di scritture dal mondo che abbiamo citato appunto in chiusura della tua biografia, di cui parleremo più approfonditamente più avanti. Sì, ho un bellissimo ricordo di febbraio 2018, quando ci siamo conosciuti appunto per Gocce Insorgenti e di tutti voi. Poi da lì appunto è nato un rapporto che poi si è diciamo intensificato tramite anche la Macchina Sognante, tramite alcuni scrittori che Affluenti ha presentato alla redazione della Macchina, che sono stati recensiti, e poi tramite i nostri scritti, i tuoi, quelli di Jonathan, quelli di Marco, e quindi diciamo che questo è un bellissimo rapporto che si è creato. Poi io penso che nella vita nulla avviene per caso, che quindi dietro al caso ci sia sempre un filo, e quindi stiamo, insomma, svolgendo questo filo, secondo me. Penso anch'io, sì, penso che da quel giorno, da quel febbraio del 2018, è nato qualcosa, no? Abbiamo iniziato a cucire qualcosa che poi si sta ulteriormente appunto diramando per entrare nei temi della tua prossima raccolta di Diramazioni, che ricordo tra l'altro andrà in stampa proprio probabilmente la prossima settimana, quindi stiamo chiudendo in questi giorni con Bartolomeo la correzione di bozze, il libro è quasi pronto, insomma aspetta solo il tipografo per la stampa, per poter essere rintracciabile sul catalogo della casa editrice e in libreria. E io inizierei, Bartolomeo, chiedendoti proprio questo, ovvero questa tua raccolta, questa tua nuova raccolta di Diramazioni, è una diramazione proprio poetica nel vero senso della parola, no? Anche a partire dalla forma stessa e dalla struttura stessa, in qualche modo, del libro, che ha appunto quattro diramazioni fondamentali, ovvero quattro sezioni al suo interno, che sono appunto nei corpi, in te, negli spazi e nel tempo. E fra l'altro il libro ha una prefazione molto bella di Fulvio Pezzarossa, di cui poi magari parleremo un po' più approfonditamente anche più avanti. Però ecco, rispetto anche a Voce Insorgenti, come dicevo, che era un libro già molto bello, io fra l'altro, se Mario si ricorda, citai fra i consigli di lettura durante la prima puntata che ho fatto qua su Combat. È un libro molto bello, molto forte anche a livello di linguaggio, che affronta varie tematiche sociali degli ultimi anni, da Giulio Regeni a quella che all'epoca fu, diciamo, l'ascesa di Trump negli Stati Uniti e molte altre. Chiaramente è un libro che, come dire, facendo leva, no, in modo forte anche appunto su questa poetica sociale e anche di contestazione, no, in qualche modo, insomma, di lotta, mi verrebbe da dire, di militanza forse poetica anche in qualche modo. E come dire, acquisiva molto appunto a livello anche di forza linguistica e di impatto, no? Come scrittura, cosa che Diramazioni non solo fa esso stesso, ma forse fa ancora di più, ampliando però credo ulteriormente il raggio di azione di questa tua ricerca poetica, ampliando sia i temi che la ricerca linguistica da questo punto di vista, cioè è appunto è una diramazione poetica che va ad affrontare, sviscerare, che si insinua, diciamo così, in quelli che sono un po' a 360 gradi, credo, i temi della tua vita, della tua esistenza e anche del tuo raffrontarti col mondo attuale, con la quotidianità che viviamo e che abbiamo vissuto in questi ultimi anni. Per cui inizierei chiedendoti proprio questo, come sei arrivato, come sei approdato a questa poetica della diramazione o delle diramazioni, e quindi come sei arrivato a quest'opera, a questo libro, dopo Voce Insorgenti e dopo ad esempio La Storia Scartata, che è il tuo ultimo romanzo, e in generale un po' come senti le diramazioni, come lo percepisci all'interno del tuo percorso poetico e letterario. Allora, ti ringrazio Edoardo della domanda, cercherò di essere breve ma sufficientemente chiaro. Allora, è un percorso che si snoda negli ultimi sia romanzi e sia nell'ultima raccolta su questi temi che sono temi universali. Tu hai citato Di Gocce Insorgenti, nasceva, parto da lì, da una considerazione, da riflessioni su tematiche diciamo di visioni globali, di storture del mondo. Hai citato Trump, hai citato appunto Giulio Regeni, c'è il dramma siriano, il dramma delle migrazioni. Ecco, e così dopo è nato in contemporanea praticamente Di Gocce Insorgenti anche La storia scartata, che è un viaggio onirico, diciamo, del protagonista in cui dialoga con le figure storiche di Cristo, di Étienne de la Boîtière. Quindi c'è molto della servitù volontaria in questo, con Gustav Landauer e quindi con questo anarchico della Repubblica della Baviera, che è stata un'esperienza bellissima di anarchia realizzata, e con i ragazzi infine della Rosa Bianca. Ed è stato portato anche questo, diciamo, come citava Mario prima, in una scuola appunto superiore bolognese, in cui a gennaio 2019, per la giornata della memoria, abbiamo visto con alcune scolaresche il film appunto omonimo della Rosa Bianca. Ecco che Diramazioni nasce come una raccolta di parte dei testi poetici scritti tra il 2017 e praticamente agosto 2020, quando abbiamo chiuso. E una stagione di eccessi, questa, di anni ancora più impazziti rispetto ai precedenti, di un sistema che è un sistema onnivoro ed energivoro, che divora tutti, divora i corpi, divora lo spazio, divora il tempo. Apre delle ferite spesso invisibili sulla pelle e di chi ci passa a fianco. Sono anni di sopraffazione, di violenze e di reclusioni dentro a metri cubi di cemento. Reclusioni che adesso con la pandemia chiaramente sono divenute più chiare, ma comunque c'erano anche prima sostanzialmente. E di rigidi consuetudini e storture che hanno insomma trasformato i nostri corpi liberi in corpi carcerari, dedicati esclusivamente alla produzione e al consumo. Quindi sono chiari intorno a noi questi segni di insofferenza, non si possono non vedere, poi ognuno li vede con i suoi strumenti, c'è chi li vede con lo strumento dello studio, della saggistica, c'è chi li vede con la poesia, c'è chi li vede con la narrativa, chi con la politica, però non si possono non vedere come praticamente siamo stati trasformati in macchine a obsolescenza programmata, come elettrodomestici, e questa obsolescenza varia solamente col colore pelle, la latitudine, la ricchezza e la qualità dell'alimentazione. Quindi questi fanno, diciamo, questo mix di cose fa sì che prima o dopo avvenga questa, diciamo, questa distruzione, questo consumo. Questi versi hanno rappresentato per me il viatico quotidiano per staccarmi di dosso la paura di finire su un tronco di ferroviario morto, ecco, per tornare alla metafora dei binari, no, di diramazioni, durante questa ricerca. Quindi io ho scavato dentro, ho scavato molto in questi anni, ho un po' snudato quello che erano i sentimenti della poesia più profondi e della ricerca poetica che ho fatto in questi anni, per cercare un senso e per cercare di che fosse la diramazione e lo snodo di questi binari dare senso alla nostra vita, quindi di intreccio con altri binari, con altre vite, e seguire questi intrecci, seguire questi nodi e questi snodi e vedere dove ci portano. I luoghi, e tu hai citato nella terza sezione appunto, che è quella dei luoghi, di queste diramazioni sono importanti, perché per far sì che che si possa snudare davvero l'io più profondo, con le sue angosce, con le sue intersezioni, le sue incongruenze, bisogna che siano luoghi dove il cuore non ha timore di essere poi accoltellato, luoghi che conservano una certa autenticità, anche se sono luoghi sottominati, un'omologazione che ha trasformato moltissimi di questi luoghi prima particolari in luoghi non luoghi, cioè come diceva Bauman, quindi in luoghi assolutamente anonimi. Questi luoghi che restano sono luoghi dove vivere con tutti i sensi riaccesi, Tutto l'olfatto si trova molto nei sensi, nelle poesie di queste diramazioni, soprattutto di olfatto, di udito e di tatto, che sono stati atrofizzati dalla indigestione visiva degli schermi, che ormai sono presenti dappertutto, poi soprattutto nell'ultimo anno e mezzo siamo solo dentro a degli schermi. E questi sono luoghi che si intrecciano fitti nella quarta sezione della raccolta con la dimensione della memoria e del ricordo, che nasce all'improvviso, emerge all'improvviso come emergono all'improvviso delle macchie di petrolio. Voi immaginatevi una superficie marina, come queste macchie cambiano forma, dimensione, si allargano, si confondono tra di loro, si mettono insieme e mettono in discussione, secondo me, la stessa linearità del tempo. Infatti la diramazione nel tempo è l'ultima sezione. E in ogni azione quotidiana, dalla più banale alla più complessa, il presente è schiacciato a un battito di ciglia, che è ancora più schiacciato in questi ultimi 20 anni del fast food, del fast fashion, di questa retorica del vivere smart, no? Che è invaso ogni ambito dell'esistenza, dai sentimenti, alle amicizie, al lavoro, persino il tempo libero, no? Con il falso binomio di velocità-efficienza. E il presente è un presente che sfugge sempre più tra le dita come sabbia, compresso da ciò che è stato, quindi il passato che è immodificabile, anche di pochi istanti o di qualche secolo, comunque immodificabile, e il futuro che è inimmaginabile e indeterminabile per quello che è il nostro limitato intelletto. Un futuro, tempo di progetti, di sogni, e una dimensione direi ancora intima, non ancora violentata dalla pornografia di questo sistema. Quindi alla fine resta un unico tempo, un tempo circolare dove diramarci attraverso gli incontri, i luoghi, le stagioni e le emozioni, le compresenze, e ce ne sono in questa raccolta di compresenze di vivi e di morti di famiglia, ma non solo di famiglia, poi vedremo, per cercare, se non un senso a questo autoaccanimento della nostra specie, almeno una comprensione di essere infinitesimi nulla in continua trasformazione e ricerca. Beh, non so Mario cosa ne pensi, ma mi sembra che gli spunti offerti da Bartolomeo, insomma, sono già molti e molto interessanti. In effetti sono tutti riverberi che arrivano molto forti, insomma, dalle pagine del tuo libro, e insomma penso poi appena il libro uscirà, quindi a giorni avremo modo, chi lo leggerà, insomma, avrà modo di entrare appunto in questi mondi, in queste diramazioni che tu appunto ci hai appena introdotto e ci hai accennato. E io, Mario, se sei d'accordo, direi che potremmo iniziare proprio anche ascoltando, no? Qualche lettura e qualche testo di questo libro da parte di Bartolomeo. Sì, stavo proprio per chiederlo anch'io, infatti. Sono suggestionato e non aspetto altro che sentirli un po' questi versi. Molto volentieri. Grazie. Allora, io inizierei da Prospettiva, si chiama questa poesia, dalla prima sezione, Nei corpi. Allora, questa io l'ho scritta sotto un portico bolognese, l'ho pensata e scritta quasi tutta in diretta, sotto un portico bolognese lungo e quasi deserto, e quindi dava quest'idea, no, di una prospettiva molto molto lunga, molto tranquilla, che non finisse. E chi passava un po', diciamo, con la malattia che abbiamo tutti, no? Attaccato a tecnologie digitali per cercare approvazione, risoluzione dei problemi, quindi in un'analisi del mondo moderno che non è più quella della complessità, no? ma che si rifà a slogan e basta. Quindi andava dritto, a testa bassa, dentro questo tubo vita, praticamente senza potere, senza poter o volere o poter vedere, visioni un po' diverse oltre all'arco del portico, di visioni di felicità, di leggerezza, di altruità. La leggo. La tramontana gioca alle montagne russe sotto gli archi del porticato. Disegna curve ellittiche, avvolge i capitelli che dissertano di buon'ora, di risvegli, saracinesche, lune cadenti e crepuscolari nostalgie. Si passa lenti, dal portone al forno, con gli spiccioli contati per il pan grattato, con l'aroma della moca impregnato nella pelliccia anni 50. Si passa veloci, a occhi bassi, in attesa, dalle budelle di Facebook, di responsi ai tanti affanni. Esercito di codardi che non fa prigionieri. La prospettiva è nuda, non si vede la fine della retta, ma c'è, dopo l'ultima colonna. Beh, fra l'altro, Bartolomeo, bellissima poesia, fra l'altro prospettiva, una... In quale sezione è del libro? Scusami, ricordami, in che sezione si trova? È nella prima sezione, nei diramazione dei corpi. Esatto, è nella sezione nei corpi, e tant'è che fra, insomma, fra le varie poesie, e anche ripensando un po' a quello che dicevi poco fa, no? Su come questo tuo libro, queste tue diramazioni poetiche, in qualche modo... forse sono ancora più attuali, no? Adesso alla luce anche di quello che è successo e che sta succedendo, proprio perché prendevano coscienza, no? Coscienza poetica di un processo, no? Che già da anni stava accadendo e che ci stava portando un po' tutti quanti ad essere parte, diciamo, di un grande allevamento intensivo, no? Diciamo così, a livello globale, e quindi, diciamo, ci stava portando a essere tutti parte di quelle condizioni che poi in qualche modo a loro volta ci hanno reso possibile, insomma, quello che da un anno a questa parte, insomma, in particolare tutti quanti stiamo vivendo, e che chiaramente ha comportato, oltre, insomma, a un evento tragico come quello della pandemia, ma forse anche un ulteriore passo, no? Nella direzione di questa standardizzazione e di questa chiusura del linguaggio e delle prospettive all'interno di spazi sempre più delimitati, di cui tu stesso parlavi ed accennavi. Ovviamente riprenderemo, insomma, il filo anche più avanti di tutto questo, però questa tua poesia prospettiva è bella anche perché dà il senso di questo, no? Mi sembra, cioè, leggendola ci sentiva appunto anche questo senso di un po' di inquietudine o di incertezza nei confronti del futuro, no? O anche di quando parli appunto di dinamiche in cui si passa lentamente in pochi passi appunto dal portone al forno, quindi dinamiche in qualche modo che sembrano essere ripetitive all'infinito, ma è allo stesso tempo di responsi a tanti affanni che arrivano dalle budelle di Facebook, no? Quindi da quel mondo dei social o dei mass media a cui tutti quanti siamo, diciamo, sottoposti un po' come un oracolo, ora, insomma, da un anno a questa parte ancora di più, però la poesia termina appunto con quest'idea di prospettiva, no? Questa prospettiva che non si vede ma c'è oltre l'ultima colonna, no? E quindi termina con un'immagine bella, no? Anche, insomma, di apertura e di possibilità di costruzione di qualcosa di diverso, proprio a partire dalla dimensione sensoriale, no? Di cui tu stesso parlavi, che emerge fortemente, insomma, come uno dei temi importanti di questa tua raccolta. Per cui, ecco, poi magari riprendiamo il filo dell'argomento anche successivamente, però mi piacerebbe chiederti se oggi tu questa raccolta che hai iniziato a scrivere prima della pandemia e hai terminato, diciamo, in fase pandemica, se oggi la senti in qualche modo forse ancora più attuale, no? Alla luce di quello che è successo. Sì, in effetti, ecco, Edoardo, i primi testi, rivedendoli, poi li abbiamo appunto rivisti tutti in questi mesi, e sono andato anch'io con la memoria a ripensarli, quindi del 2018, eravamo in fase pre-pandemica e sono forse i testi più, tra virgolette, leggeri e della seconda sezione, e mentre molti testi della terza e della quarta, a livello di quantità, adesso non sono in grado di fare una quantitativa su queste 65 poesie, quante sono state scritte già con la pandemia in corso e qua prima, però la maggior parte sono state scritte già pandemia in corso, che per me è stata a livello anche emozionale e di scavo, che stavo dicendo, un grosso motivo di scavo e di trovare delle parole, di trovare delle visioni diverse. Beh, direi, Mario, che se ci va potremmo proseguire nelle letture, con un'altra lettura di Bartolomeo. Certo, con piacere, sì. Allora, io parlavo prima di spazi, quindi vorrei leggervi questi, diciamo, questi versi intitolato La ristrutturazione e fanno parte della terza sezione negli spazi, no? E la città è sempre, diciamo, più attaccata, la città, soprattutto il centro cittadino, dalla gentrificazione degli spazi, cioè questa trasformazione dei centri vissuti dagli abitanti, che di solito sono abitanti anziani, o da studenti in città universitarie, come può essere Firenze, Bologna o altre, in appartamenti che diventano costosi loft, per turisti a 4 stelle e derubano quello che è l'animo della città autentica, mentre chi è costretto a pagare affitti e non può pagare appunto affitti pazzeschi deve spostarsi sempre più in periferie massimizzate. E quindi è nato un po' da questo, da io camminavo appunto da flaneur cittadino come l'amico Jonathan Rizzo che saluto, che dovrebbe essere tra i nostri, e camminavo appunto per una città, per una via di Bologna, via Santo Stefano, e c'erano in corso nel palazzo di fronte dei lavori di ristrutturazione, di uno sventramento proprio notevole e sono nati questi versi. Siete tornati in forza a sventrare i fantasmi, a stanarli dai cassonetti in legno. Restano tre croci nodose, si tengono per mano per non morire, a sorreggere il Golgota del soffitto. Avete fatto crollare l'Olimpo degli archi affrescati. Di drappeggi e broccati avete fatto tappeti per le vostre sudice vernici e tacchi di gomma. Martellati gli stucchi, estirpate le grottesche, le pareti sono scheletri ruvidi, di stanze malnutrite. La calce viva coprirà l'urlo delle ultime nobildonne in bolletta. Tra poche settimane taccerà il tuono prepotente dei calcinacci, coi cocci dei piatti d'oro bordati e delle posate di peltro. La polvere di 3 secoli di felina apatia si estinguerà per sempre nei polmoni dei muratori e dei passanti distratti. Verranno turisti a suonare il campanello, pagheranno bene, pagheranno crauti hamburger per questo minimalismo globalizzato di massimo guadagno. Beh, penso che anche a Firenze, quanto a gentrificazione, no? E a quanto appunto a questioni che riguardano gli stravolgimenti, in particolare dei centri cittadini, sulla scia della gentrificazione, della cosiddetta gentrificazione e della cosiddetta turistificazione delle città. Beh, penso insomma che anche qua ne sappiamo, ne abbiamo viste parecchie in questi anni, ma credo che anche a Bologna, insomma, la situazione negli ultimi anni non sia stata parimenti diversa. Altra dinamica, forse altro motivo per cui poi in un mondo, diciamo così, schizofrenico a livello globale, poi non è così inspiegabile che sia accaduto poi quello che è successo, e che anche un evento pandemico, no? Insomma, come quello che è accaduto, con tutte le conseguenze poi anche dal punto di vista sociale, politico, economico, culturale, abbia potuto prenderci tutti quanti un po' alla sprovvista, ecco. E io, fra l'altro, mi piacerebbe, per tornare, se ti va, anche chiederti qualcosa riguardo un altro aspetto, credo interessante, insomma anche importante per noi di PoiUIT, del tuo libro, ovvero una prefazione molto bella che ha scritto a diramazioni Fulvio Pezzarossa, che è stato già autore anche dell'introduzione a Cresce dentro di me un uomo straniero di Ghesim Haidari, di cui abbiamo letto un estratto qualche settimana fa, in particolare l'estratto della sua poesia Elegia per i miei amici poeti esuli, l'estratto di questa poesia del nuovo libro di Ghesim, in cui Ghesim ricorda una persona, insomma un personaggio, un poeta a noi molto caro, ovvero Hassan Atiyah al-Nassar, che anche Mario conosceva bene, insomma, e che abbiamo a nostra volta ricordato più volte qui in trasmissione. Fulvio Pezzarossa, appunto, ha scritto anche una bella prefazione a Diramazioni, e so che fra l'altro avete già collaborato, insomma, su diversi progetti. Credo che lui ti seguisse almeno fin dai tempi della Storia Scartata, insomma, comunque sicuramente anche già da prima di Diramazioni ti seguiva anche dal punto di vista letterario. Fulvio Pezzarossa, lo ricordo, è un docente di sociologia della letteratura, se non sbaglio, all'Università di Bologna. Esatto. E ha scritto anche un articolo sull'ultimo numero della Macchina Sognante, quello già uscito, perché ora ne uscirà un inizio maggio, proprio su Cresce dentro di me un uomo straniero di Ghesim Haidari, che lo ricordo è, oltre insomma a essere uno dei poeti esuli anche lui, insomma, di origine albanese, in attività probabilmente più importanti che ci sono in Europa, ha vissuto molti anni in Italia, a Frosinone, adesso vive a Londra, è pubblicato anche lui da Edizioni Ensemble, ed è anche direttore della collana editoriale di Erranze, sempre per Edizioni Ensemble. Per cui, ecco, sarei curioso di chiederti un po' come è nato anche questo incontro con Fulvio Pezzarossa e come Fulvio si è avvicinato, no? Si è interessato alla tua produzione letteraria, e anche un po' che progetti avete, se avete anche altri progetti in cantiere per la Macchina Sognante o per altri progetti, appunto. La collaborazione con Fulvio, come hai detto, ecco, giustamente tu, si è concretizzata con la Storia Scartata, che abbiamo presentato insieme a un libro di un'amica veronese alla biblioteca Storia di Caula a Bologna. E lui, diciamo, ha fatto un po' da trade union, no, tra questi due libri diversi, che però avevano anche dei fili, no, in comune, che si poteva rinviare da uno all'altro. È stata, insomma, una presentazione sicuramente interessante per gli spunti che appunto il professore ha tirato fuori dal cilindro, no, in quell'occasione. Certo, lui come sociologia della letteratura segue dei laboratori all'università per quanto riguarda anche scritture sulle migrazioni. Quindi lui diceva già la Macchina Sognante, Pina Piccolo, che è la nostra coordinatrice, quindi le collaborazioni sono nate, cioè la conoscenza è nata sostanzialmente dal partecipare a questo progetto, di cui parleremo un attimo dopo, apriremo una parentesi, la Macchina Sognante. E poi si è concretizzata appunto con la Storia Scartata, e per me è stato del tutto naturale, visto che i temi, anche se affrontati in modo diverso lì nella Storia Scartata come narrativa e qui come poesia, però c'erano anche qui delle tematiche comuni. E quindi per me è stato naturale, no, coinvolgerlo, anzi lo ringrazio perché si è fatto, tra virgolette, coinvolgere anche in questa seconda avventura. E no, attualmente altri progetti sulla Macchina Sognante, altri progetti, diciamo, in corso, immediati, non ne abbiamo, su quello appunto di poi propormi, come di proporre da parte del professore Sognante, degli scritti dell'ultimo laboratorio fatto all'università con i ragazzi, appunto, scritti sulle scritture sulla migrazione, quando saranno pronti. Bene, siamo, penso, insomma, curiosi anche di conoscere più approfonditamente questi ulteriori progetti, appunto, e poi queste ulteriori collaborazioni fra te e Fulvio. E ti direi, a questo punto, se ti va, di farci la terza lettura che avevamo in scaletta, appunto, da Diramazioni. Sì, magari prima della terza lettura potremmo partire con la canzone che avevamo scelto. Ok, così mi serve molto da apertura e da creare una certa emozione. Grazie. Che ne pensi, Mario? Pronti? Via. Viva l'Italia! L'Italia liberata, l'Italia del valzer e l'Italia del caffè, l'Italia derubata e colpita al cuore. Viva l'Italia, l'Italia che non muore. Viva l'Italia, presa a tradimento. L'Italia assassinata dai giornali e dal cemento. L'Italia con gli occhi asciutti nella notte scura. Viva l'Italia, l'Italia che non ha paura. Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare. L'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare. L'Italia a metà giardino e metà galera. Viva l'Italia, l'Italia tutta intera. Viva l'Italia, l'Italia che lavora. L'Italia che si dispera e l'Italia che si innamora. L'Italia metà dovere e metà fortuna. Viva l'Italia, l'Italia sulla luna. Viva l'Italia, l'Italia del 12 dicembre. L'Italia con le bandiere, l'Italia nuda come sempre. L'Italia con gli occhi aperti nella notte triste. Viva l'Italia, l'Italia che resiste. Grazie, e io avevo appunto richiesto cortesemente questa, questa canzone di Francesco De Gregori, Viva l'Italia, per introdurre un po' la lettura che faremo sulla quarta sezione, che è quella del tempo. E una lettura che ho intitolato questa poesia A schiere. E qui è il flusso di memoria, di coscienza che mi ha preso completamente come qua una cascata di acqua, no? E in cui sono è tornata davanti, tramite questa cascata è tornata su di me tutta la vita. La vita, diciamo, come singolo, quindi come singolo uomo, come singola persona, come singola donna, ma anche la vita delle lotte, delle battaglie di piazza, l'eccitazione di sacrificarsi per degli ideali, e poi a un certo punto il vuoto, il tradimento, ma anche solo l'aspetto del tempo inesorabile, no? Che consuma ora quelli che erano i cervelli, i corpi migliori, no? E in un silenzio cosmico. A schiere si cade dentro alle fauci del tritacarne, il cordone ombelicale reciso, la gioia liquida della placenta. A schiere, in punta di piedi, il tour per l'arabesque e il velo da sposa, il selfie al rialto, i gemelli ai polsi, il braccialetto della prima comunione, col nome inciso sulla battigia di un tramonto nei piedi, i granelli di sabbia che pulsano le tempie, di un bacio che avvampa e l'amore a compasso che consuma e ritorna. A schiere, tuffarsi nel cerchio di fuoco e la legna che brucia, il pane caldo ci brucia nel petto, la vita dei funghi, le spore sotto le unghie, le mani che ridono, ridono sempre, quando si incontrano, impressionano la luce, album infiniti di coppie di luci, e le labbra che ridono con le gocce di latte, e le gocce di sesso che ridono solo se sono per te. A schiere, nelle piazze, in mezzo alle strade, le bandiere, gli slogan, i brividi alla schiena, il fare e il disfare, non dormire, sudare utopie da ogni poro e bruciare i vessilli del male. A schiere, cosa resta degli infiniti convogli di pensieri, degli amori e degli odi claustrali? La piuma rotta di un'ala di piccione, litania di fiammelle a miliardi, ogni nome da nominare, la garrota si stringe attorno al collo, la saliva inizia a mancare, urlare. Questa era A schiere di Bartolomeo Bellanova, che nel ringraziare ancora per essere stato ospite oggi qui con noi per queste letture in anteprima di diramazioni, prima di salutarlo e invitarlo anche però a rimanere se vorrà con noi per il resto anche della trasmissione per commentare e parlare ancora assieme a noi, vorrei fare... Ma va volentieri, Mario. Già risposta, siamo molto contenti, allora evviva. Ti vorrei fare, Bartolomeo, un'ultima domanda, visto che ci abbiamo girato un po' intorno già dall'inizio, insomma, alla macchina sognante, a questo progetto di cui abbiamo un po' parlato, che è nato nel 2015 e che è definito appunto un contenitore di scritture dal mondo. Sul Chi siamo del sito avete scritto per scritti e dibattiti sia nazionali che internazionali che per la loro natura dirompente stentano a trovare spazio in contesti letterari e editoriali. Di che progetto parliamo, insomma? Qual è stata la sua genesi? Qual è il suo scopo? Allora, tu hai fatto una poderosa sintesi, ti ringrazio Mario, perché in effetti è questo in due parole quello che è il progetto che sta dietro alla macchina sognante. Noi, l'attuale redazione, che è composta da 7 componenti, tra l'altro molto eterogenee per età, per esperienze e percorsi umani e culturali, si è ritrovata però intorno a un'idea, a un faro della letteratura che si interfaccia continuamente con la realtà sociale delle rispettive comunità, che non può essere un rifugio fuori dal mondo. Una letteratura che, come diceva lo scrittore brasiliano Crudio Monteiros Martins, morto nel 2014, che è stato per noi la scintilla che ha fatto scaturire il lavoro della macchina sognante, lo scrittore come nucleo, come cuore di resistenza, dice, è la riserva etica dell'umanità. E noi pensiamo appunto a una letteratura stessa che diviene un sé, non un fare qualcosa, ma diviene un se stessi per dare forma alla parola, ai contenuti di disagio, di protesta, di disperazione, speranza, con convinzione che tutti i fenomeni del mondo siano interconnessi tra di loro. Allora si parla molto spesso negli ultimi tempi, ancora pochi in Italia, di lotte intersezionali per ambientalismo, femminismo, specismo, e noi crediamo a questo come macchina sognante, in questa dimensione di un villaggio globo, con l'anelito comune a un'unica vita dignitosa e libera per ogni essere umano e animale. E vogliamo dare visioni altre, dirompenti, visioni che raramente possono essere contenute in media mainstream, e tramite scritture appunto da tutto il pianeta, perché abbiamo una copertura praticamente di tutto il pianeta tramite soprattutto Pina Piccolo e Walter Valeri, Lucia Copertino, ognuno un po' responsabile per le aree Nord America, America Latina, Asia, East Asia, eccetera. Lavoriamo per un vero cambiamento di paradigma, che è stata un'espressione ovviamente scientifica, no? Coniata da Thomas Kuhn, nella sua opera La struttura delle rivoluzioni scientifiche, per descrivere un cambiamento nelle assunzioni basilari all'interno di una teoria scientifica dominante, e quindi un cambiamento tramite tutti i tipi di letteratura, per cui noi copriamo nei nostri 50 più o meno articoli a numero, avendo tre numeri all'anno. Copriamo una parte di poesia, narrativa, saggistica, interviste e anche teatro. Grazie Mario e grazie a tutti per l'ascolto. Grazie a te Bartolomeo, tutte queste diramazioni di cui ci stavi parlando le si possono trovare, insomma, si possono originare dalla macchinasognante.com, che è appunto il sito a cui rimandiamo. Ti invitiamo, come già detto, a rimanere allora ancora con noi e Edo, fra quanto l'hai detto poco fa, che è in stampa adesso e quindi è questione di giorni per averlo in mano questo libro di diramazioni di prossima uscita, prossimissima. Beh, sì, stiamo chiudendo proprio la correzione di bozze con Bartolomeo e con Ensemble, quindi a giorni il libro andrà in stampa, quindi i tempi della tipografia, ecco, quindi 10 giorni, massimo un paio di settimane, sicuramente il libro sarà già disponibile sia sul catalogo di Edizione Ensemble, per la collana di affluenti appunto, ma anche in tutte le librerie online e direi soprattutto nelle librerie fisiche e tangibili che sono. Sono quelle, insomma, anche sulle librerie indipendenti, sono fra le categorie che hanno sofferto di più da un punto di vista sociale, anche insomma, negli ultimi mesi, e tra poco, insomma, apriremo anche questo tema e anche il tema che riguarda appunto alcune delle mobilitazioni di alcuni lavoratori della cultura in queste ultime settimane. Quindi a maggior ragione invitiamo a cercare diramazioni di Bartolomeo Bellanova in uscita per la collana di affluenti con Edizione Ensemble. Perché no? Prima di tutto nelle tante librerie indipendenti che cercano di resistere come Bartolomeo, come tutti quanti noi, nonostante tutto, è un ulteriore buon motivo per cercare questo bel libro in libreria. Grazie Edoardo, e aggiungo solamente 30 secondi, quindi darò comunicazione diciamo, sulla mia pagina Facebook, quindi con Bartolomeo Bellanova, molto, molto semplice, dell'uscita, ovviamente fisica, e del libro e anche delle librerie indipendenti che per scelta, diciamo, sceglieremo nelle varie località, ecco, e che avranno copie del libro, perché ci piace creare tramite questo appunto una comunità, poi ben venga poter fare eventi dal vivo che saranno i migliori rispetto a quelli diciamo che si possono fare ora, però diciamo è l'inizio dai, di questo cammino da fare insieme. Certo, e nella speranza che ci sia davvero occasione di rivedersi anche presto dal vivo, salutiamo e concludiamo per adesso questa prima parte di trasmissione. Adesso un pezzaccio e ci risentiamo fra pochissimi minuti con Edoardo Olmi e Bartolomeo Bellanova qui su Poio.it. Swing on a rope from here to the Cape of No Hope. Now freedom must be fundamental. Gonna take. Ed erano i Rage Against the Machine, mi mangio le parole, soprattutto in inglese. Sono le 16.35 dell'11 aprile. Prima di spostarci, come avevamo detto, sulle occupazioni dei teatri Mercadante di Napoli e Piccolo di Milano, visto che è ancora con noi, ne approfitto per coinvolgere subito di nuovo Bartolomeo Bellanova, per cui era arrivato un messaggio che non avevo fatto in tempo a leggere, allora glielo leggo adesso. Bartolomeo, ti hanno scritto: grazie Bartolomeo Bellanova per questi versi forti e coraggiosi. Chi ti conosce da vicino sa che si accompagnano a un impegno sincero e concreto per la cultura, la poesia, la diversità. Un abbraccio da un'amica bolognese, una diramazione fra le tante. Questo è un messaggio che è arrivato sul pad della diretta per te, Bartolomeo, mi sembra di cuore e e che sicuramente ti farà piacere. Grazie, sono sinceramente emozionato, grazie. Grazie, mi fa molto piacere e ringrazio tutti. Grazie davvero. A te. Concordo anche io con quanto è stato detto dalla nostra simpatica ascoltatrice. Edo, adesso invece ci spostiamo su e giù per la penisola, andiamo a sud, andiamo a nord, andiamo a Napoli, andiamo a Milano. Ci avevi infatti... Sì, come dicevi Mario, appunto da Bologna, dove abbiamo, dalla quale città abbiamo avuto il piacere di ascoltare l'anteprima di diramazioni di Bartolomeo Bellanova, e ci sposteremo, viaggeremo un po' per l'Italia, perché ne abbiamo parlato un po', accennato anche con Bartolomeo, di quelli che sono stati gli ulteriori sconvolgimenti, no? Che in qualche modo quest'anno di pandemia ha portato nella vita e nell'esistenza, anche nel lavoro, oltre che nella salute purtroppo di tutti quanti noi o di molti di noi. Ma appunto adesso che ancora insomma stiamo cercando di capire cosa ne sarà di noi nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, però ora chiaramente ci sarà tutto il tira e molla, no? Delle riaperture, delle non riaperture, che c'era già stato nei mesi precedenti, ma chiaramente adesso probabilmente entreremo in una fase ancora più calda, no? In qualche modo anche di queste questioni e di quello che viene definito appunto cosiddetto ritorno alla normalità o la cosiddetta ripartenza, con tutto quello che appunto dal punto di vista di quella società dell'allevamento di massa, diciamo così, di cui un po' lo stesso Bartolomeo ci parlava, insomma questa idea di ripartenza, no? E di ritorno alla normalità non è detto che poi non possa comportare ulteriori problemi o appunto ulteriori problematiche rispetto anche a quelle che già ci siamo trovati ad affrontare in questi mesi. Chiaramente penso, e poi insomma sarei molto curioso, insomma mi piacerebbe anche sentire cosa ne pensa Bartolomeo, cosa ne pensi tu Mario, ma credo che insomma questo virus, quest'anno di pandemia, è stato diciamo un qualcosa che ha colpito i più fragili, diciamo così, non soltanto da un punto di vista sanitario ovviamente, ma anche da un punto di vista sociale, no? Dal punto di vista e di quella che è stato appunto che sono stati i cambiamenti e i sacrifici in qualche modo molte categorie lavorative hanno fatto e dovuto fare, dai medici negli ospedali in prima linea a tante categorie che hanno dovuto chiudere i battenti senza sapere bene come e quando avrebbero potuto riaprire. Ci sono tante persone che purtroppo non lavorano, non possono lavorare da mesi, alcune da un anno. Ma appunto in queste settimane ci sono già state alcune mobilitazioni credo interessanti, soprattutto perché penso che abbiano cercato di portare la questione appunto Covid, pandemia, post-pandemia, come dire, affrontandola da un punto di vista, no? Portandola sul piano anche di quello che riguarda ovviamente la questione sanitaria, no? Che chiaramente è in qualche modo importante o prioritaria da affrontare, ma di capire come per affrontare questa questione non si può prescindere anche dall'affrontare tutta una serie di questioni che sono anche sociali o sociopolitiche, che adesso sono in qualche modo connesse o strettamente connesse, no? Che quindi se non si cerca di costruire, no? Di provare a pensare un domani, un post pandemia, che sia in qualche modo anche possibilmente, potenzialmente diverso e radicalmente diverso da quel tipo di massificazione o di agglomerato appunto urbano, suburbano e sociale che ci ha portato fino a tutto questo, sarà difficile penso pensare, immaginare un post pandemia che sia veramente un post e non qualcosa di forse ancora peggiore che ci potrebbe aspettare insomma dietro l'angolo. Fra queste categorie penso particolarmente colpite in questi mesi e fra queste mobilitazioni credo interessanti che ci sono state in queste ultime settimane, abbiamo scelto diciamo di aprire una finestra, una piccola finestra sulle mobilitazioni dei lavoratori del teatro e dello spettacolo, in particolare di due teatri anche abbastanza importanti, insomma storici in Italia, che sono il Teatro Mercadante di Napoli e il Teatro Piccolo di Milano. Thank you. sono il Teatro Mercerante di Napoli e il Piccolo di Milano e il Piccolo Teatro Grassi di Milano, che hanno dato vita a partire dalla Giornata Mondiale del Teatro dello scorso 27 marzo delle occupazioni e dei tentativi di mobilitazioni permanenti per, diciamo, rivendicare una serie di diritti a partire da quelli che saranno i prossimi mesi di eventuale possibile riapertura anche dei teatri. E in particolare credo che la mobilitazione del Teatro Mercerante di Napoli, anche appunto delle modalità e delle rivendicazioni, sia particolarmente interessante. Vi leggo da internet brevemente, diciamo, anche quello che questi lavoratori, appunto questa mobilitazione, in particolare quella del Mercerante, che si è collegata poi anche a quella del Piccolo, cosa ha espresso a partire dalla giornata del 27 marzo. Oltralpe sono ormai vicine i luoghi della cultura e dello spettacolo occupati da lavoratori e lavoratrici. Si fa riferimento ovviamente alle occupazioni dei teatri che ci sono, alle decine di occupazioni dei teatri che ci sono già state in. In questi giorni la pratica delle occupazioni ha iniziato a diffondersi anche alle nostre latitudini. Ad aprire le danze, il tentativo di occupazione giovedì del Teatro Mercerante di Napoli. Lavoratori e lavoratrici dello spettacolo avevano trovato cordoni di polizia a sbarrare le varie. Ma non perdendosi d'animo, nella mattina di venerdì diverse compagne e compagni sono riusciti a scavalcare il cordone di recinzione. Era entrare nel cortile, di fatto proclamando l'occupazione. All'iniziativa è seguita una lunga trattativa con la direzione del teatro, che ha portato al seguente risultato. Abbiamo ottenuto che una delegazione di 10 lavoratori e lavoratrici dello spettacolo gestisca a tempo indeterminato uno spazio assembleare permanente. Per continuare a lottare e proporre contenuti da socializzare in maniera totalmente orizzontale ed autogestiva. Allora, è vero, caro Edo, ci mandano anche dei messaggi. Ci stanno anche scrivendo un po' che non riescono, chi ci ascolta non riesce bene a sentire. Allora, facciamo così, magari lo riprendo un attimo io, questa prima parte del comunicato, e vedi se riesci un attimo a fissare l'audio, ti ricoinvolgo fra un minuto. Tanto questa prima parte del comunicato che stavi prendendo era tratta da InfoOut, che appunto a seguito delle occupazioni in Italia, che facevano seguito alle decine di occupazioni, un paio di dozzine se non sbaglio, insomma, fatte dei teatri fatte in Francia, si erano appunto svolte in occasione della giornata mondiale del teatro, e come leggevi, ad aprire le danze il tentativo di occupazione di giovedì scorso del Teatro Mercadante a Napoli. I lavoratori e le lavoratrici dello spettacolo avevano trovato cordoni di polizia in antisommossa a sbarrare l'ingresso, ma non perdendosi d'animo, all'alba di venerdì diverse compagne sono riuscite a scavalcare il muro di recinzione e ad entrare nel cortile, di fatto proclamando l'occupazione. All'iniziativa è seguita una lunga trattativa con la direzione del teatro, che ha portato al seguente risultato. Abbiamo ottenuto che una delegazione di 10 lavoratori e lavoratrici dello spettacolo gestisca a tempo indeterminato uno spazio assembleare permanente per continuare a lottare e per proporre argomenti e contenuti da socializzare in maniera totalmente orizzontale e autogestita. Abbiamo usato le armi della solidarietà, della determinazione, della cultura e della ragione, perché intendiamo essere noi stessi i fautori del nostro futuro. E abbiamo vinto. Solo la lotta paga. Edo, intanto vediamo se il microfono è adesso di nuovo a posto. Che commenti su questo? Tu che comunque sei a tua volta un lavoratore della cultura, lavori in biblioteca, lavori nell'editoria, lavori da scrittore, hai voluto solidarizzare, proporre questo argomento oggi nella puntata di Poi You It, legata ai lavoratori dello spettacolo, in particolare del teatro, perché in fin dei conti un fronte e una lotta? È così? Beh, sì, però forse adesso mi sentite, sì, ecco. E sì, sicuramente, chiaramente abbiamo scelto una delle mobilitazioni già interessanti e significative che penso ci siano state in queste settimane. Speriamo non solo che non sia l'ultima, ma che sia la prima di una lunga serie, chiaramente quella dei cosiddetti appunto lavoratori della cultura, dello spettacolo, in questo caso del teatro, è una delle molte categorie, insomma, che è particolarmente colpita. Dalle conseguenze di questa pandemia, non è l'unica ovviamente, però mi è sembrato in particolare anche appunto il comunicato che hai letto del Mercatante di Napoli, e mi è sembrato molto interessante anche proprio nella modalità, no? Di mobilitazione assembleare basata su un'assemblea permanente che i lavoratori di questo teatro hanno chiesto, hanno rivendicato e sono riusciti ad ottenere tramite anche un'occupazione degli spazi del teatro e quindi tramite anche una prospettiva che riporti la loro opera stessa e il loro lavoro stesso su un piano di autogestione, no? Anche di modalità autogestionaria di gestire gli spazi stessi in cui loro lavorano, per i quali lavorano e quindi probabilmente anche le prospettive, diciamo, la poetica stessa, no? Di quello che è il loro lavoro e forse anche proprio il loro pensarsi come, in questo caso, lavoratore di un teatro e della cultura, no? E credo che questa pandemia ci ha fatto riflettere un po' tutti quanti molto anche su questo, cioè su quali fossero le modalità, di aggregazione, di incontro e di gestione, degli spazi e delle dinamiche quotidiane con cui anche e nei posti di lavoro, negli spazi di lavoro avevamo a che fare e torneremo ad avere a che fare e con cui torneremo ad avere a che fare in qualche modo anche da domani. Per cui, ecco, nella misura in cui credo che sia un po' tutta un'architettura dello spazio, no? Che è collassata nell'evento storico di questa pandemia, un'architettura, diciamo, una civiltà dello spazio che viene da molto lontano, in qualche modo è collassata a chi ha dimostrato, diciamo, la sua incredibile fragilità, il suo essere un gigante con i piedi d'argilla, no? E improvvisamente andando insomma, venendo messa in crisi da questo virus, da questa pandemia, credo che il tema degli spazi, del ripensamento degli spazi e soprattutto della gestione ed autogestione possibile e diversamente possibile degli spazi sia e sarà gli spazi intesi anche come spazi da costruire, ovviamente, non soltanto come spazi da provare a recuperare in chiave autogestionaria. Io penso che sarà una delle tematiche fondamentali e che dovranno essere trasversali di quello che sarà anche il dibattito sul cosiddetto post-pandemia e su quello che ci aspetta se non vogliamo rischiare di trovarci anche in qualcosa possibilmente anche peggiore di quello che ci è successo da un anno a questa parte. E io in questo anno di pandemia sicuramente ho avuto proprio molto la sensazione di questa cosa qua, cioè che non c'è veramente possibilità di conciliare la tutela della salute, la lotta per la salute delle persone senza una prospettiva, senza la ricerca di una prospettiva di una socialità altra e radicalmente altra a 360 gradi che riguarda l'aspetto economico, sociale, politico, culturale. Abbiamo visto tutti quanti come in una società basata ovunque in qualche modo sul profitto è impossibile riuscire a conciliare la salute delle persone, la tutela della salute delle persone con la tutela della vita, del lavoro e della felicità di tutti quanti. Quindi credo che questi saranno alcuni dei temi fondamentali, oltre a quelli ovviamente anche più strettamente sanitari, che oggi riguardano anche le campagne di vaccinazione o comunque insomma, l'inizio anche dei vaccini che arrivano e tutto quanto, ma sicuramente anche quelle che ho detto insomma poco fa e quelle che riguardano anche l'aspetto sociale, no? E culturale di tutta questa vicenda, penso che saranno altrettanto importanti, altrettanto attuali e sicuramente molto più connesse a tutto il resto di quanto forse non siamo stati abituati a pensare in questi mesi. Beh sì, sono parole che io personalmente mi sento sicuramente di condividere, poi rilevando anche come questi parti avanzate dei lavoratori della cultura, insomma, vogliano non soltanto parlare delle aperture, ma parlare in generale di chi vive condizioni di vita precarie dovute alla crisi economica scaturita poi dalla pandemia. C'è in Francia una grossa lotta contro la riforma, la legge sulla disoccupazione voluta da Macron. In Italia avremo, in vista il blocco dei licenziamenti, lo sblocco, anzi, dei licenziamenti è sicuramente una forma di socialità altra, basata sullo spazio in un senso lato, per come lo delineavi, non soltanto gli spazi peraltro fisici, mi sembra ciò su cui c'è sicuramente da prestare attenzione. Chiederei anche su questo se ha voglia di dirci la sua, lo avevi fatto poco fa anche tu, e quindi mi aggancio a Bartolomeo, se ci volesse fare un commento su questo aspetto, su questo di cui ci parlava Edoardo. Sì, grazie. Allora, io ho scritto così dei pensieri miei, qualche riga, senza nessuna pretesa, perché non sono un tutologo, però vi partecipo di questa riflessione. Innanzitutto condivido appieno quello che avete detto finora e quindi non mi ripeto. Io penso che dopo 14 mesi, scusate, dall'inizio di questa epidemia globale, con tutte le conseguenze sulla vita dei singoli, ma anche delle comunità, sulla libertà di vivere, di espressione, di partecipare alla determinazione di un nostro destino, si sia creata davvero una cesura nella storia umana e in quello di ogni essere umano. E allora ho pensato a una provocazione, cioè perché avrebbe senso, e mi faccio una domanda, la faccio a me stesso, poi diciamo la estendo a chi vuole pensarci, avrebbe senso a questo punto parlare di anno 2019 ante Covid e non più ante Cristo, e anno 1, cioè il presente, cioè il 2020 e il presente come anno 2, 2021 DC, cioè dopo Covid. Questo perché si è creata questa situazione che non è chiaramente passeggera, non è che col vaccino la situazione ritorni, cioè ritornare al passato non è possibile, e anche perché il passato abbiamo visto che è stato malato da una sbornia di 30 anni di questo turbo capitalismo, di questo potere incontrastato delle elite finanziarie, no? Che hanno dettato le regole di vita a tutto il pianeta. Anche se c'erano già le possibilità di capire dove si andava a finire, perché gli esperti ce lo dicevano, il libro del 2012 molto chiaro, che è Spillover di David Quammen, in cui lui ha parlato della distruzione degli ecosistemi naturali, che è legata a doppio filo alla diffusione all'uomo di virus sconosciuti che albergano soprattutto nei mammiferi selvatici, e lo spillover è appunto il salto di specie, no? Che è stato fatto o dai pipistrelli o da altro. Questo interessa poco in questo. Se a questo assommiamo tutte le politiche che sono state fatte di taglio di bilancio, tutte le politiche per tagliare la spesa improduttiva della sanità, della scuola, dei presidi sanitari e quant'altro, e arriviamo alla situazione di oggi della pandemia così diffusa. Ecco, il pericolo che vedo io oggi è proprio il silenzio, un macigno di silenzio e la stanchezza che fa accettare tutto questo. Allora io dico una cosa, e questo fa parte di questa provocazione: epidemia controllata, non bisogna più stare al gioco o far finta di non capire il gioco. Occorrerà il coraggio di chiamare in giudizio una classe dirigente che è una classe dirigente italiana, ma non solamente italiana, direi mondiale praticamente, compromessa. E bisogna uscire di casa, bisogna abbracciare, creare, fare reti, cioè dire basta in qualche modo, bisogna smascherare queste falsità e queste bugie che ci stanno davvero tutti i giorni somministrando. E bisognerebbe fare un nuovo processo di Norimberga, non solamente per rispetto di tutti i morti, di tutte le centinaia di migliaia di morti, ma per tutti quelli che resteranno segnati nel corpo dal virus e per i milioni di cuori che si sono incattiviti, inariditi, per i milioni di vite nude, ridotte in cattività, spente un po' alla volta. Poi c'è tutto un discorso, ma qui non mi voglio diciamo prendere dell'altro tempo e mi scuso, di chi potrebbe fare questo, di chi potrebbe oggi pronunciare le parole di Franco Fortini, proteggete le nostre verità, quando le ideologie del Novecento, con tutte le loro aberrazioni però, che hanno diciamo sostenuto parte delle lotte del Novecento, si sono squagliate come neve al sole, ma anche e soprattutto un'etica pubblica e un'etica e una morale privata che sono state spazzate via. E questo lo lascio come punto aperto, e vi ringrazio per aver potuto condividere questa mia provocazione su AC e DC, anche perché sarebbe importante in ogni mail che scriviamo, in una lettura di calendario, in un libro, in una storia, usare questa nuova terminologia per contare gli anni, anche perché diventino monito di una disfatta definitiva o di un'accelerazione davvero a un portentoso cambiamento. Grazie. Io spero soprattutto nella seconda, Bartolomeo, come appunto eventuale faglia epocale, no? Sicuramente anch'io, però sono tutte e due strade possibili. Va bene, mettiamo adesso una canzone. Edo, volevi dire qualcosa ancora? Volevi aggiungere qualcosa? No, che è sicuramente molto interessante tutto quello che avete espresso sia tu, Mario, che Bartolomeo. Penso anch'io, insomma, che è successo un evento molto grande che forse ha portata epocale, però forse, ecco, rivendichiamo anche un po', non la normalità, perché ci stanno appunto riempiendo la testa già con questo della normalità, però forse anche il dargli il giusto peso che ha e deve avere, però facendo attenzione anche a non farsi, diciamo, noi stessi sovrastare, no? Da quello che è successo. Cioè, io penso che in un certo senso viene un po' da ridere o da sorridere quando sento dire niente sarà più come prima, perché lo capisco il senso, però a me oggi viene da pensare che in realtà tutto quello che noi abbiamo detto e sostenuto da anni, da decenni, a me oggi sembra ancora più attuale di prima. Cioè, in un certo senso, a me a volte sembra che ora è ancora tutto più come prima, nel senso che ora è ancora più il momento in cui una serie di cose come quella che Bartolomeo stesso citava o suggeriva devono venire fuori, no? E quindi è giusto avere il senso, e forse anche epocale, no? Di qualcosa che chiude un'epoca in questa vicenda del Covid, ma anche del fatto che, come tu stesso dicevi, Bartolomeo, quello che è successo con il Covid in realtà pone le sue basi, le sue radici ben da prima. E quindi sì, sono d'accordo, è forse un evento che chiude un'epoca, però diamogli l'importanza che ha e che deve avere, ma senza farsene anche eccessivamente, diciamo, sovrastare, no? Ecco. Bartolomeo? Sì, io ti ho ascoltato attentamente e sono d'accordo, nel senso, senza lasciarsi sovrastare, ma senza pensare appunto che si possa, che quella di prima fosse la normalità. Quindi, come dici tu, sono cose che da anni qualcuno se ne è, quindi un cambiamento radicale, però questo deve essere appunto un'accelerazione, e un'accelerazione grande a questo cambiamento. Quindi io non pensavo al fatto di farsi sovrastare, ma appunto come una persona che prende una botta, diciamo, in qualche modo che arriva contro una finestra, che dice ok, pensavo che fosse non ci fosse il vetro, cioè di passare dall'altra parte, il vetro c'era, bene, prendo questa botta, ma mi serve e mi sveglio, ecco, in questo senso. Grazie. Bella metafora, sono d'accordo. E allora è su queste attualissime riflessioni e suggestioni che mandiamo la canzone degli Iron and Wine, e poi ci sentiamo per l'ultima parte della trasmissione, ancora poesia internazionale per la fine di questa puntata di Poiuit. Ed eccoci, mi sono dimenticato di cambiare la base per quest'ultima parte di trasmissione di oggi. Sì, in questa ultima parte volevamo presentare il Red Carnation International Poetry Reading, un reading internazionale online di poesia organizzato dalle Revolutionary Poets Brigade e dal World Poetry Movement, un evento che si terrà il prossimo 27, martedì se non sbaglio, 27 aprile alle 18. E beh, allora, le brigate di poeti rivoluzionari e Hirschman sono dei nomi che sono già parecchio emersi all'interno di questa serie di puntate domenicali che facciamo, però forse questo è il momento, caro Edo, di mettere un po' tutto in ordine. Di cosa stiamo parlando? Cosa sono tutti questi nomi che abbiamo fatto? Che evento ci sarà martedì 27 aprile? Insomma, dici tutto. Beh sì, delle Revolutionary Poets Brigade. Come tu stesso dicevi, Mario, delle Revolutionary Poets Brigade ne abbiamo parlato, insomma accennato in varie, anche delle scorse puntate di Poi Meet, perché sono appunto un progetto che ci è caro, direi, no? In qualche modo, e progetto fondato nel 2009, se non sbaglio, da un certo signor Jack Hirschman, ovvero quarto poeta laureato di San Francisco. Ricordo che il primo poeta laureato di San Francisco, una delle più importanti onorificenze poetiche che attualmente ci sono negli Stati Uniti, è stato un altro certo signor, diciamo, Lawrence Ferlinghetti, che abbiamo per l'appunto ricordato qua su Poiuit, se non sbaglio la puntata scorsa di marzo, perché appunto il 23 febbraio scorso è morto Ferlinghetti all'età di 101 anni. Ferlinghetti, che era fra l'altro carissimo amico di Jack Hirschman, e Jack Hirschman è appunto un poeta che viene solitamente accostato, diciamo, alla parabola beat, anche se poi diciamo i più, forse fra i più ostili e fra i più avversi, diciamo così, alla categoria soprattutto di beat e di poesia beat, sono stati gli stessi poeti che poi sono considerati beat, i cosiddetti, diciamo, membri della poesia beat, perché gli stessi Corso, Ginsberg, Ferlinghetti, Kerouac e lo stesso Hirschman, non ultimo, in realtà non hanno mai veramente, forse del tutto, condiviso o sentito questo appellativo che è stato dato a posteriori alla loro poetica, alle loro vicende poetiche, che poi in realtà sono molto spesso anche ben più diversificate e ben più eterogenei di quanto appunto la mania, no, anche un po' occidentale per le categorie non faccia pensare, no, in serie storiografica e di storia della letteratura. Tant'è che anche Jack Hirschman in realtà si definisce più un poeta di strada che un poeta beat o tardo beat, perché lui è, diciamo, anagraficamente è già di una generazione leggermente successiva a quella dei Kerouac, dei Corso e dei Ferlinghetti, però sicuramente ha collaborato con tutte queste personalità, con Ferlinghetti in particolare, a San Francisco. Jack Hirschman vive a San Francisco. Nel 2009 ha fondato appunto questo progetto delle Revolutionary Poets Brigade, Brigate dei Poeti Rivoluzionari, nate a San Francisco e che si sono diffuse subito, in brevissimo tempo, sia in molte altre città degli Stati Uniti. C'è per esempio un gruppo delle brigate a Los Angeles, ad esempio, ma anche in molte città europee, tra cui Roma, di cui è esistito in questi anni un nucleo della Roms Revolutionary Poets Brigade, di cui io ho anche fatto parte dal 2011 al 2015 all'incirca a Roma, fondata da Alessandra Bava e Marco Cinque, che sono Marco, diciamo, un altro poeta di strada, insomma, piuttosto conosciuto a Roma, che da sempre organizza eventi di poesia, ad esempio in spazi sociali, nelle carceri, e ha organizzato eventi anche con detenuti nel braccio della morte nelle carceri statunitensi, anche con nativi americani che sono stati incarcerati e detenuti nel braccio della morte. E Alessandra Bava è anche lei una poetessa romana, è attualmente, diciamo, in qualche modo la biografa ufficiale di Jack Hirschman, nel senso che da anni sta scrivendo una biografia ufficiale di Jack, con cui è a stretto contatto anche per questo lavoro. Jack Hirschman, fra l'altro, è un grandissimo estimatore della poesia italiana, in particolare di quella che viene, diciamo, dagli anni 60-70. Lui, per esempio, è un grande estimatore di Pasolini, ha scritto anche una poesia molto bella su Pier Paolo Pasolini. Ho avuto il piacere di conoscerlo personalmente più di una volta a Roma, Jack, perché, insomma, prima dell'evento pandemico, appena poteva, veniva molto volentieri, faceva anche delle tournée, dei tour veri e propri di lettura di sue poesie in Italia e sicuramente anche fra i poeti di quella generazione, di quella parabola, di quell'esperienza che a posteriori è stata definita con l'appellativo Beat, forse Hirschman è quello che si è connotato, che si è contraddistinto di più anche proprio per l'impegno politico, no? Per l'impegno dal punto di vista sociopolitico che lui ha sempre accompagnato alla produzione poetica e soprattutto alla lettura poetica, motivo per cui è stato ed è tuttora particolarmente ostracizzato anche dal mercato culturale e letterario statunitense. È stato insomma storicamente e dichiaratamente un attivista delle sinistre radicali in America e tuttora lo è, e quindi diciamo questo poi spiega anche questa sua attitudine, poi spiega anche un progetto come quello delle Revolutionary Poets Brigade fondato da Hirschman insieme ad altri poeti a San Francisco, che è un progetto che si propone appunto di portare la poesia, in particolare le letture poetiche, in spazi, in contesti di cosiddetta conflittualità sociale. Sul sito stesso, se non sbaglio, delle Revolutionary Poets Brigade, ci sono i video o gli audio delle letture di Jack Hirschman durante le manifestazioni di Occupy San Francisco, per esempio, che come sapete era diciamo la versione della West Coast di quello che fu qualche anno fa, che iniziò con Occupy Wall Street. E questo progetto chiaramente in questo anno pandemico si è dovuto spostare anche su alcuni eventi online, e qualche settimana fa è arrivata una mail da parte di Alessandra Bava, che è appunto una delle fondatrici, oltre che biografa di Hirschman, è una delle fondatrici del gruppo romano delle Brigade, in cui, coinvolgendo sia me che Marco Cinque, che Ludovica Lanini, che abbiamo presentato insieme a Chiara Nobilia qua su PoiBeat, anche lei membra della Roms Revolutionary Poets Brigade, ci girava questa mail di Jack Hirschman, in cui Jack a sua volta proponeva, tramite un poeta del World Poetry Movement, altro coordinamento internazionale di poeti che ha la sede, diciamo, direttiva, tra virgolette, a Medellín, in Colombia, tramite un poeta colombiano che si chiama Fernando Rendon, altro coordinamento internazionale di poeti molto vicino a tematiche come quelle, per esempio, care alla macchina sognante del nostro Bartolomeo, no? Quindi un progetto poetico, coordinamento poetico che pone molta attenzione, ad esempio, su poeti discriminati, perseguitati, a volte anche incarcerati per motivi di opinione o per la loro produzione letteraria nei rispettivi paesi. Un poeta in particolare Sarmiento, che è un poeta portoghese del World Poetry Movement, ha proposto un reading internazionale di poesia che si chiamerà, appunto, si intitolerà Red Carnation International Poetry Reading, quindi reading internazionale di poesia a garofano rosso, e prendendo spunto da questa organizzazione, la Red Carnation, o in italiano garofano rosso, che era una delle organizzazioni di sinistra che combatteva la dittatura in Portogallo. E Sarmiento ha proposto questo reading internazionale, organizzato appunto, lanciato dal World Poetry Movement e subito rilanciato dalle Revolutionary Poets Brigade, per denunciare in qualche modo, per fare rete, per far sentire la voce di tutti i poeti che in qualche modo aderiscono, sono vicini a questi progetti, nei confronti di quello che Jack in qualche modo ha definito il fascismo imperante, o quantomeno l'ulteriore fascistizzazione, o l'ulteriore in qualche modo deriva autoritaria che il capitalismo in questa fase di ulteriore crisi ha preso, sta prendendo o rischia di prendere. Ne abbiamo avuti tanti esempi purtroppo dall'Italia al Brasile, agli Stati Uniti, all'est Europa e non solo, insomma, in questi anni. Sicuramente penso che anche la fase politica attuale che c'è in Italia non va certo, insomma, in una direzione particolarmente opposta rispetto a questa tendenza, diciamo, autoritarista, direi, che il capitalismo in questa fase prende, è inevitabile, perché è il primo, diciamo, a essere in crisi di fronte a tutto questo, e già da diversi anni lo era, e quindi il 27 aprile è stata concordata questa data, il 27 aprile alle 18, per l'evento italiano, perché saranno una serie di reading a livello internazionale che si terranno in vari giorni diversi a ridosso di fine aprile. Per l'Italia è stata concordata la data del 27 aprile, perché diciamo i vari poeti partecipanti, fra cui anche Bartolomeo, si sono, diciamo, trovati su questa data, e grazie anche a un'altra poeta brigadista che è Anna Lombardo, che sta curando la parte organizzativa. Sarà un reading probabilmente su qualche piattaforma online, perché per adesso purtroppo la situazione non ci permette di fare diversamente, ma il 27 aprile alle 18 con Anna Lombardo, Alessandra Bava, Marco Cinque, Ludovica Lani e appunto il nostro Bartolomeo Bellanova in collegamento quest'oggi con noi, e anche un'altra poetessa che abbiamo avuto il piacere di presentare sempre qui su PoiUit, ovvero Chiara Nomilia, più altre possibili, diciamo, adesioni che aspettiamo e che speriamo ci saranno nei prossimi giorni. Il 27 aprile alle 18 ci sarà il reading italiano del Red Carnation International Poetry Reading, lanciato appunto dal World Poetry Movement e rilanciato da Jeff Hirschman e dal progetto del Revolutionary Poets Brigade. Beh, magari ora vediamo se riusciremo anche a scaricare l'audio, potremmo mandarne degli estratti nella puntata di maggio. Improvviso questa cosa, potrebbe essere carino da fare. Sicuramente io lo seguirò, rilanceremo anche l'evento, insomma caricheremo probabilmente anche un evento sulla punta. Comunque 27 aprile alle 18, poi immagino dal sito, dalla pagina Facebook delle Brigate sarà dato annuncio esatto del modo per seguire lo streaming, quale piattaforma sarà scelta, eccetera. Sì, sicuramente terremo informati sia tramite gli organi delle Brigate, anche dei gruppi che ci sono qua in Italia. Ci sono già, credo, delle informazioni forse sul sito internazionale della Revolutionary Poets Brigade. Qua in Italia, tra l'altro, c'è presente un gruppo che è stato molto attivo a Bari, anche in Sicilia, e quindi ci sono diverse città in cui alcuni poeti si sono incontrati intorno a questo progetto. Sicuramente su vari organi appunto online metteremo le informazioni a ridosso del 27, che comunque attualmente è la data appunto già concordata, quella del 27 aprile alle 18, e molto volentieri, se avremo modo di registrare anche il reading o una parte di esso, sarebbe bello poi rilanciarlo, riproporlo anche nella puntata di maggio di PoiUit. Bartolomeo, tu che ci sarai, ora che cos'è, ha detto tutto perfettamente Edo, quindi ti chiedo che cosa leggerai e in quale lingua leggerai? Allora, io leggerò una poesia che ho già pensato quando Edo appunto mi ha mandato l'invito, ho letto anche il contesto, una poesia da diramazioni. Da diramazioni non solo e non tanto perché appunto in uscita, come ci siamo detti, e ci sono molto affezionato e molta emozione oggi a fare questa anteprima, ma perché si sposa molto bene rispetto alla tematica che affronta questo reading, ed è molto sentita perché riguarda la vita di mio padre, quindi fa parte di quella quarta sezione di cui dicevo, di relazioni nei tempi, no? Torna un po' il tempo del passato, delle persone che non sono più con noi, ma che sono con noi in altra forma, in altra sostanza, come può essere un padre, e quindi leggerò appunto a mio padre. La leggerai in italiano, per come l'hai scritta? Eh sì, la leggerò in italiano, sì, assolutamente. Perché sono eventi nazionali, Edo, in cui ciascun autore legge nella propria lingua, oppure non ci sono indicazioni su questo? Allora, diciamo, per adesso l'indicazione che è stata data è quella di leggere, beh, in realtà credo sia abbastanza facoltativo, nel senso che ognuno può leggere nella sua cosiddetta lingua madre in ciascun paese, però, anzi, grazie che dall'intervento di Bartolomeo e dal vostro scambio di battute mi avete ricordato anche questa cosa, i testi che verranno letti durante il Red Carnation International Poetry Reading potranno poi essere proposti entro il 30 aprile per una nuova antologia internazionale delle Revolutionary Poets Brigade che uscirà in estate, perché appunto il progetto delle Brigade in questi anni ha curato e pubblicato anche una serie di antologie poetiche con autori veramente da tutto il mondo che aderiscono, in qualche modo sono vicini o hanno collaborato con questo progetto, e uscirà una nuova antologia internazionale in estate con i testi, per chi vorrà proporli, che verranno letti durante il reading di fine aprile, e in quel caso chiaramente le antologie internazionali delle Brigade hanno sia il testo in lingua originale, quindi ci sono veramente, nell'ultima poesia a cui ho partecipato, che era, se non sbaglio, Overthrowing Capitalism numero 4, c'erano testi veramente in tutte le lingue del mondo, cioè dal greco all'indiano, veramente insomma testi al filippino, c'erano poeti dalle Filippine, quindi veramente autori, lingue e linguaggi a tutti gli angoli del mondo. E chiaramente oltre ai testi in lingua originale viene pubblicata anche la traduzione in inglese di ogni testo, in modo che poi la fruizione dell'antologia possa essere quanto più trasversale possibile. Però per il reading di fine aprile l'indicazione che è stata data è quella che ognuno può leggere, diciamo, nella lingua che preferisce, quindi ogni autore, ogni poeta può leggere nella sua lingua madre, e poi sarà, diciamo, sarà cura, no, della prossima antologia delle Brigade quella di proporre i testi che sono stati letti anche nella traduzione in inglese. Bellissima questa cosa dell'antologia, Edoardo, poi vedremo se riuscire a fare un servizio anche sulla macchina quando sarà il momento, insomma, sarebbe bello. Soprattutto vediamo se riusciamo a inserire in questa antologia anche Bartolomeo Bellanova, insomma, sarebbe, se a Bartolomeo va, insomma, penso che sarebbe sicuramente un bel contributo per questo lavoro in uscita. Allora, staremo con le antenne ben dritte per tutto questo e molto altro. Sicuramente, Bartolomeo, è la prima, ma non di certo l'ultima volta che ci risentiamo qui su queste frequenze. Siamo negli ultimi 10 minuti di trasmissione. Edo, se sei d'accordo, abbiamo iniziato con i versi. Io con i versi tenderei a chiudere. Che facciamo? Un paio di letture? Che combiniamo adesso per concludere in bellezza questa puntata di oggi? Beh sì, avevamo pensato, appunto, abbiamo parlato di Jack Hirschman, e a noi piace, quando parliamo di poesia e dei poeti, ci piace far parlare prima di tutto i loro versi, no? Le loro stesse parole, che credo e crediamo siano ciò che meglio di qualunque altro, di qualunque altro discorso, di qualunque altra parola può raccontargli. E quindi abbiamo pensato di raccontare un po' Jack Hirschman leggendo una sua poesia, che fra l'altro devo dire mi ha colpito, perché i testi di Hirschman sono sempre molto forti e spesso anche vanno molto diretti anche su questioni sociali, no, e storiche che ci riguardano. Questo testo, che non conoscevo, l'ho trovato sul sito della Casa Internazionale della Poesia, che è uno degli organismi poetici con cui Hirschman collabora e che organizza anche alcune delle letture di Jack Hirschman quando Jack viene qua in Italia. Ho trovato questo testo che si intitola La felicità, che io non conoscevo, non so neanche quando l'ha scritto Jack Hirschman, se in anni recenti, se recentemente, se in questi mesi, perché devo dire che è un testo che mi ha ricordato molto, mi ha suscitato molto gli stati d'animo in qualche modo che credo ci accompagnano e ci hanno accompagnati, soprattutto, non solo, ma soprattutto in particolare, ancora di più forse da un anno a questa parte, ma che, come il nostro stesso Bartolomeo ci suggeriva, erano stati d'animo che covavano dentro di noi forse anche da molto prima. Allora, questa poesia, di cui credo che forse dopo ascolteremo anche la lettura in inglese di Jack, che si trova sul sito della casa della poesia, si intitola La felicità. C'è una felicità, una gioia nell'anima che è stata sepolta viva in ciascuno di noi e dimenticata. Non si tratta di uno scherzo da bar, né di tenero intimo umorismo, né di amicizia affettuosa, né un grande e brillante gioco di parole. Sono i superstiti sopravvissuti a ciò che accadde quando la felicità fu sepolta viva, quando essa guardò più dagli occhi di oggi, e non si manifesta neanche quando uno di noi muore. Semplicemente ci allontaniamo da tutto, da soli, con quello che resta di noi, continuando ad essere umani, ad essere esseri umani, senza essere umani, senza quella felicità. Una scelta bellissima, Elon. Grazie. there's a happiness, a joy in the soul that's been buried alive in everyone and forgotten. It isn't your ballroom joke or tender intimate humor or affections of friendliness or a big bright pun. They're the surviving survivors of what happened when happiness was buried alive, when it no longer looked out of today's eyes and doesn't even manifest when one of us dies. We just walk away from everything alone with what's left of us, going on being human beings. Without being human, without that happiness. E sì, questa che abbiamo sentito alla fine era la voce di Jack Hirschman. Scusate, qualche problema di audio quest'oggi. Sono d'accordo anch'io con Bartolomeo, davvero una ottima scelta. Edo, grazie per questa scelta e questa lettura. Abbiamo ancora con noi Bartolomeo Bellanuova, al quale chiederei allora negli ultimi 2 minuti che ci restano, se è d'accordo, un po' così a tradimento e a bruciapelo, a regalarci anche lui un'ultima sua lettura, se gli va. Certo, grazie, e farò una lettura breve dalla prima sezione, un attimo che era qua. Un attimo fa. Eccola. Quindi da diramazione nei corpi, di questo non dico nulla, lascio parlare solamente i versi, grazie. Imitazioni. Bisogna essere implacabili come il filo a piombo, annusare la tempesta. Dullo bianco del lampo, il fiato corto del tuono, e mettere in salvo il pane, nascondere ai ladri i tuoi capelli di rame, correre via dalla ruggine che ci penetra dentro. Corrode i pensieri, pensarci calchi, bozzetti al carboncino, in una soffitta polverosa, imitazioni di imitazioni, comparse con lo stesso copione, sotto questo cielo fegato malato, sotto questa cappa troppo pesante per i sogni di farfalle sedate con la novocaina. Grazie a tutti, grazie Mario per questa ospitalità e speriamo di conoscerci presto, magari già da maggio. Grazie. Speriamo davvero, Bartolomeo, grazie a te per essere stato con noi, per i tuoi pensieri, i tuoi versi, le tue letture. Grazie come sempre anche a Edo Olmi per essere come sempre stato assieme a noi. Le diramazioni di Bartolomeo Bellanuova saranno a breve, a giorni, disponibili come abbiamo detto sul sito di Edizioni Ensemble, presso la collana Fluenti oppure nelle librerie indipendenti che Bartolomeo comunicherà sui suoi siti. Non ci resta che ricordare l'appuntamento di martedì 27 alle 18 per il grande reading internazionale. E cos'altro, Edo, a parte i saluti? Beh, che non so se vogliamo fare un po' di spoiler, come si dice, anche sul prossimo Festival di Letteratura Sociale, che speriamo di poter organizzare al più presto, fra maggio, fra fine maggio, giugno, insomma, comunque appena la situazione ci permetterà qualche margine in più di agibilità. Però credo che anche come PoiUIT abbiamo un po' di cose in programma e in progetto anche per il Festival, tra cui dove forse ci piacerebbe portare anche qualche nostro autore, magari per un reading non solo in radio ma anche dal vivo, e chissà che non possa essere un'ulteriore occasione per conoscere, per ascoltare nuovamente diramazioni di Bartolomeo Bellanuova e magari anche per conoscerlo e farlo conoscere di persona anche ai nostri ascoltatori. Beh, allora per un po' di scaramanzia aspettiamo ancora a dire troppo, ma promettiamo che sicuramente nella puntata di maggio daremo pieno conto di tutto quanto, soprattutto se in effetti il festival riusciremo come speriamo tanto a farlo, e quindi dedicheremo la puntata del mese prossimo proprio al Festival della Letteratura. Che altro dire se non rimanete con noi sintonizzati su Radio Wombat fra poco la bellissima Fuga del Gatto e come sempre al mese prossimo qui su PoglioIt. Leggere è un modo per viaggiare. Yeah! What's up, y'all? This your boy T-Mike. See, I usually do songs with like hooks and concepts and shit, right? But fuck that, man. I'm trying to go platinum. So I'm about to rock this shit. Check this out, y'all. Direi che è il modo più bello per viaggiare.